L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio e ben ritrovati da Laura Bettini all'altro pianeta, quello della sostenibilità e del rispetto per l'ambiente. Questa volta è anche il pianeta nebbia, però, come quella che non ci ha consentito di vedere un briciolo di un paesaggio che ci hanno assicurato invece è incantevole. La Valle del Reno, non quella tedesca, ma a Marzabotto, provincia di Bologna, dove si trova la Dismeco, un'azienda specializzata nel riciclo di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, IRAE. Parliamo di piccoli e grandi elettrodomestici e in un futuro prossimo anche di lampade. La Dismeco è arrivata qui da poco meno di un anno, riposizionandosi in quelle che fino al 2007 erano le cantiere Burgo, che prima erano state cartiere Rizzoli e che comunque nei secoli erano sempre state cartiere. Non c'è bisogno di grandi spiegazioni. Le cartiere erano storiche, però alla fine hanno chiuso, lasciando lavoratori senza stipendio e capannoni senza padrone. Per un'azienda qualunque, quell'area era di pregio, perché già industriale, vicino all'autostrada e a un passo dalla ferrovia. Per la Dismeco, a quanto pare, è stata un'area di pregio anche perché si confaceva al progetto di borgo ecologico. Claudio Tedeschi è l'amministratore delegato di Dismeco. L'idea era quella di appunto additivare con un brand che fosse un brand pieno di contenuti. Quindi accanto all'attività produttiva vera e propria, che come ripeto viene svolta in eccellenza dal punto di vista tecnologico, quindi abbiamo acquistato le migliori attrezzature che erano presenti sul mercato e per quanto riguarda diciamo invece l'approccio nostro, quando queste attrezzature non esistevano ce le siamo inventati in senso positivo e costruiti. E quindi perché fare solo impresa, perché fare solo industria? Vediamo di dare un contenuto al progetto. E da qui è nato il discorso del borgo ecologico, preso il borgo ecologico. Quindi non solo attività produttiva, ma luogo dove si può declinare la sostenibilità ambientale in tutte le sue accezioni più ampie. E quindi ecco i progetti per coprire i capannoni di pannelli fotovoltaici, quelli per utilizzare la vecchia condotta forzata per la produzione di energia elettrica e poi quelli per recuperare l'ex Villa Rizzoli per attività di formazione e didattica. Abbiamo pensato che fosse un preciso dovere dell'imprenditore, così come, senza fare dei paragoni estremamente impegnativi, quali l'approccio olivettiano degli anni 60, fosse un dovere preciso dell'imprenditore quello di impegnarsi per avere una simbiosi e anche una osmosi con il territorio. Quindi che destino poteva avere questa villa? Dal nostro punto di vista questa villa può avere un destino multidisciplinare legato comunque alla sostenibilità ambientale, perché riteniamo che uno dei ruoli dell'imprenditore sia appunto quello di creare anche cultura ove possibile. E quindi destinare questa villa o gran parte di questa villa a trasformare in centro didattico. Un centro didattico però come lo sanno fare gli imprenditori, quindi estremamente pratico, estremamente concreto, all'interno del quale i bambini vedranno concretamente, tramite diciamo telecamere che saranno poste all'interno dello stabilimento, dove va a finire la lavatrice della mamma una volta che viene smaltita o viene dismessa, o dove va a finire il rasoio del papà una volta che cessa di funzionare. Il fulcro dell'attività è però ovviamente il riciclo. Ma se anche quello che sentirete oggi vi convincerà, non potrete portare i vostri vecchi elettrodomestici a Marzabotto, che poi non è dietro l'angolo per tutti. Il sistema non funziona così. La normativa, infatti, stabilisce che i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche si organizzino in consorzi, più propriamente detti sistemi collettivi, e ne finanzino l'attività. Dalla raccolta dei RAE nelle piazzole ecologiche, al trasporto ai centri di trattamento specializzati, come la Dismeco, alla verifica delle percentuali di recupero nel rispetto della legge e dell'ambiente. Quindi sono altri che fanno queste scelte, non siete voi, e dovrebbero farle con criteri di vicinanza e qualità del lavoro svolto. È inutile e dispendioso far fare a una lavatrice 400 km per essere smembrata da un'azienda amica, tra virgolette. Com'è dannoso e illegale farle fare 5 km per portarla da un rottamaio non attrezzato per lo smaltimento. Ci sono però delle vie di mezzo. La legge impone in fondo un recupero dell'82% dei RAE, non un recupero totale dei materiali che li compongono. Con questo target, una volta tolti i condensatori delle lavatrici, ad esempio, avrebbe potuto operare anche il gruppo Fiori Italmetalli, che è specializzato nella raccolta e riciclo di metalli ferrosi e non ferrosi e che invece ha preferito diventare socio di Dismeco. Werther Boninsegna, responsabile commerciale di Dismeco. Tutti i componenti che noi selezioniamo e separiamo manualmente dalle lavatrici ovviamente hanno un prezzo proprio perché separati in questa maniera e non invece come fanno altri impianti che assoggettano tutto quanto a triturazione, quindi compreso magari i motori, compreso il blocco di cemento che c'è all'interno delle lavatrici, forse non tutti sanno che c'è una zavorra in cemento per contrappeso del cestello. Triturando tutto, ovviamente tutti i materiali vengono frammisti, vengono inquinati dal cemento che si polverizza e una separazione posteriore ovviamente ottiene come risultato dei materiali di scarsa qualità, oltre che sporchi. Il gruppo Fiori Italmetalli, visto che è dotato di macchinari giganteschi per trattare quel volume di automobili, potrebbe tranquillamente trattare questo materiale alla stessa stregua. Triturando tutto, quindi tornando a quel discorso che facevamo prima, non l'hanno voluto fare, uno perché ci sono delle normative, due perché hanno voluto che si creasse un'azienda, appositamente, o meglio che si potenziasse, perché esisteva già un'azienda specializzata in questo settore e che avesse quell'immagine, quell'etichetta, quel formato per presentarsi con tutte le carte in regola sul mercato. Insomma, riciclando meglio si recupera di più. Ma che cosa esattamente si recupera? Claudio Tedeschi. Le parti recuperate, e nel nostro caso appunto parliamo del 98%, quindi un'eccellenza quasi assoluta, vengono conferite a degli impianti che trattano direttamente la materia prima, quindi noi dalla lavatrice recuperiamo tutti i cosiddetti materiali pregiati, per cui c'è l'acciaio, c'è il ferro, c'è l'alluminio, la ghisa, i motori elettrici, il rame, il vetro, e certamente anche le plastiche. Con il nostro acciaio, con l'acciaio che noi recuperiamo per esempio dalle lavastoviglie, vengono rifatti altri cestelli per le lavastoviglie, quindi diciamo che cerchiamo di, e questo può avvenire solo se vi è un percorso di eccellenza nel trattamento e nel recupero. Ma va bene l'approccio olivettiano, ma che vantaggio c'è per l'azienda a riciclare così puntualmente? Rispondono sia Tedeschi che Boninsegna. È un approccio, sicuramente un approccio più costoso, però la qualità del materiale che noi riusciamo a recuperare è migliore, non solo con un intervento. Quindi proponendolo ad aziende assolutamente esterne, sì. Avete più un attimo di marginalità migliore, anche perché chiaramente, adesso voglio banalizzare, ma un motore della lavatrice, comunque il 99% sono motori ancora funzionanti, diciamo intervenendo a monte noi riusciamo a salvarlo nella sua integrità, mentre triturandolo in maniera diciamo tradizionale è materiale che va completamente disperso, quindi noi comunque come approccio nostro privilegiamo il riuso e la possibilità del riuso. È un approccio diciamo concettuale completamente diverso, probabilmente meno funzionale dal punto di vista economico, ma secondo me e secondo noi è il futuro, il fatto di comunque concepire una linea che sia una linea che punta al recupero e non alla distruzione. Cioè di fatto c'è una maggiore marginalità, ma ci sono anche dei maggiori costi di lavorazione ovviamente legati a questo, quindi diciamo che la maggior marginalità, al di là di essere un qualche cosa che può essere interessante e utile solo per l'azienda, in qualche modo serve anche a sostenere questa maggiore quantità di lavoro manuale che è finalizzata a ottenere il materiale di qualità, cioè quando da qui esce il nostro acciaio inossidabile triturato è un acciaio pulito che se andrà in fonderia produrrà diciamo un nuovo acciaio, un acciaio rigenerato che sarà comunque più pulito perché avrà minori percentuali di componenti spuri all'interno e quindi voglio dire, anziché mettere in circolo successivamente dei prodotti di acciaio, come diciamo, come si può dire, secondario, anziché piuttosto proveniente da una fonte primaria come quella estrattiva, anziché mettere in circolo un acciaio secondario che comunque nasce inquinato, si mette in circolo un acciaio secondario che nasce più pulito. Il tema è interessante. Da un buon riciclo ottengo materie prime e seconde di buona qualità e ho poco scarto. Ma comunque un po' di scarto c'è. Dove va a finire? Werther Boninsegna. Quest'anno addirittura c'è stato un fiorire di visite di aziende cinesi che arrivavano qui quasi neppure senza appuntamento, cioè proprio con un approccio molto, molto diretto così, e ci hanno fatto 1000 offerte per acquisire materiale da noi, ma anche materiale estremamente non selezionato, cioè una frazione di quello che noi produciamo purtroppo lo dobbiamo smaltire, perché non è che possiamo fare una separazione micrometrica, lo dobbiamo smaltire perché il materiale è piuttosto sporco, brutto, è una piccola percentuale, ma c'è, loro erano disposti a comprare tutto. E voi gli avete detto di no? No, non ci siamo fidati, perché insomma... E dove finiscono allora gli scarti degli scarti? Diciamo che vanno ad aziende di smaltimento italiane che fanno questo, fanno solo questo, si smaltiscono. Si spera di no, diciamo che noi a livello ovviamente di interazione con queste aziende ci siamo preoccupati di avere tutto quanto quello che è obbligo avere, quindi richiedere autorizzazioni, chiedere informazioni, documentazione su quali sono i loro processi, quindi come vengono trattati questi materiali anche di scarto. Quindi per conto nostro sono aziende che lavorano in maniera sicura e certificata. Il nostro approccio, dicono la Dismeco, sarà premiato nel tempo, perché la legge, le persone, le imprese cercheranno noi per il nostro modo di lavorare, per le macchine che abbiamo saputo realizzare. E certo, anche se abbiamo preso le cose al contrario, il tempo ci darà ragione. Mentre giriamo per i capannoni, che hanno un vago odore di detersivo, come gli elettrodomestici che si stanno smontando, ci auguriamo che Tedeschi abbia ragione e che nei tempi previsti arrivino tutte le autorizzazioni necessarie ad aumentare il raggio d'azione dell'azienda. Per avere le autorizzazioni per il trattamento dei rifiuti stiamo attendendo da un anno circa, ed è chiaro che l'acquisto dell'impianto, l'acquisto delle macchine, l'acquisto del terreno su cui lavorare, questo è avvenuto ben prima, quindi siamo esposti in maniera estremamente importante. È un peccato perché, come nel nostro caso, non si tratta di rifiuti tossico nocivi, ma si tratta di elettrodomestici, l'elettrodomestico che o la componente che è nelle case di tutti noi. Quindi, pur essendoci dei percorsi, dei protocolli molto rigorosi, ecco, se, secondo il mio parere, i percorsi autorizzativi, pur nella loro rigidità, fossero da un punto di vista burocratico un po' più semplificati, chiaramente... Il problema è burocratico? Assolutamente. Devono venire... È un problema burocratico e è anche legato al fatto che per far partire un impianto di questo tipo sono coinvolti 15 soggetti, dalla soprintendenza all'USL, all'ARPA, al comune, alla provincia, alla regione, all'autorità di bacino. Eppure ci aveva detto Werther Boninsegna, la Dismeco era stata accolta favorevolmente sul territorio. C'è stata una buona accoglienza perché c'è stata una rivitalizzazione di un'area morta. Prospettiva di lavoro, ma non solo quella, noi qui adesso purtroppo non si vede oggi, ma siamo circondati dal parco di Montesole, che è una bellissima zona verde. Chi ha visto come abbiamo lavorato qui si è reso conto che noi abbiamo fatto tutto con un'estrema attenzione, diciamo anche estetica, insomma, vista la zona in cui ci troviamo, abbiamo il fiume da una parte e le montagne dall'altra, e tutti hanno capito che qui le cose si fanno in maniera seria anche da questo punto di vista. Pertanto l'accoglienza è stata, io penso che continuerà a essere ottima. Poi da quelle autorizzazioni dipende anche la sorte di diversi lavoratori della ex cartiera a cui era stata promessa un'assunzione alla Dismeco. Saranno i primi, era stato detto, ma ora, ammette Tedeschi, finché non saremo a pieno regime non c'è nulla da fare. Siamo in 30 e tanti bastiamo per il lavoro che stiamo svolgendo. Ieri, e quindi qualche giorno dopo la nostra visita a Marzabotto, Legambiente ha attribuito alla Dismeco una segnalazione speciale nella edizione 2011 del premio all'innovazione amica dell'ambiente. Vi ricordo per scriverci l'altropianeta@radio24.it, c'è la pausa per il traffico, proseguiamo subito dopo. L'altro pianeta. E Bentornati all'Altro Pianeta, la seconda parte del programma che cominciamo sempre con una intervista. Per questa settimana vi proponiamo il nostro incontro, ahimè solo telefonico, ma comunque fruttuoso, con il commissario del governo olandese per il programma Delta. Si chiama Wim Kalkon e nei giorni scorsi era a Roma, chiamato al Water Forum organizzato da Confindustria e Ambasciata dei Paesi Bassi per discutere di gestione delle acque e difesa del territorio. Un tema quanto mai di attualità nel nostro paese. Cos'è il programma Delta dell'Olanda? È un programma nazionale nel quale tutti, governo, province, comuni, magistrati delle acque, organizzazioni non governative, aziende, università, collaborano per difendere il paese dall'acqua alta e garantire l'approvvigionamento di acqua dolce. Un'attenzione speciale all'acqua c'è sempre stata in Olanda. Quando si vive sotto il livello del mare non si può fare altrimenti, ma con i cambiamenti climatici in atto, confermati da studi nazionali e internazionali, si è deciso di spingere e cercare contromisure serie in tempi brevi. E così in 2 anni il programma Delta è stato avviato, ha cominciato a lavorare e entro il 2015 dovrà fornire risposte a varie domande, come rafforzare argini e dighe ad esempio, come garantire acqua dolce ai campi e alle città, come non sprecare l'acqua, come fare manutenzione. Sentiamo allora Wim Kalkon. I cambiamenti climatici sono un problema per tutti, e in particolare in Olanda. Abbiamo ovviamente le politiche di mitigazione, che sono le politiche europee, ma abbiamo anche le nostre azioni. L'Olanda è in gran parte un delta. Il 60% del nostro paese è a rischio esondazione, quindi dobbiamo proteggerci molto bene. Le conoscenze che abbiamo le usiamo per proteggere il nostro paese anche quando si alza il mare, il che ci espone a rischi più alti. Quindi il tema dei cambiamenti climatici è per noi molto importante. Per mettere in sicurezza il vostro paese avete bisogno ovviamente di monitoraggi e continui investimenti. Da dove arrivano i finanziamenti? Il governo si è dotato di un Delta Act e in questo atto è previsto un fondo per finanziare le azioni da intraprendere. Questo fondo è alimentato dallo Stato con 1 miliardo di euro all'anno per le misure che dobbiamo intraprendere per difenderci da mare e fiumi. Sono soldi dei contribuenti ad essere stanziati, ma questo è un settore vitale per il nostro paese. L'acqua che da una parte vi è nemica, dall'altra però è una fortuna per le vostre coltivazioni e le produzioni alimentari. Come gestite questa risorsa? È una buona domanda. Accanto alla necessità di difendere il nostro paese dall'acqua, l'area del Delta è particolarmente prospera perché è un delta. Nei parchi federali del Delta c'è molta agricoltura. Quello che abbiamo cominciato a fare nel 2010 è l'esecuzione di un programma che abbiamo chiamato Fresh Water, acqua dolce, che abbiamo messo a punto per garantire i rifornimenti agli agricoltori anche in periodi di siccità o comunque di secca, affinché gli agricoltori possano continuare a produrre e quindi di conseguenza a rifornire i mercati e a guadagnare. E quindi ci sono dei programmi di collaborazione con gli agricoltori? Sì, abbiamo elaborato con loro dei programmi. Ovviamente il Parlamento deve prima di tutto approvare la strategia, ma è molto importante per noi che gli agricoltori siano coinvolti nel processo, perché loro sì che sanno bene che qualità di acqua ci vuole per i loro campi, sanno trattarla, sanno che abbiamo sempre più infiltrazioni d'acqua salata, almeno nell'area occidentale. Insomma, sono partner per l'elaborazione di soluzioni per le loro imprese. L'Olanda è un paese in cui diversi gruppi di interesse cercano di collaborare, soprattutto se si tratta di un programma come quello per il Delta, avviato con il Delta Act nel 2010. In questo programma per l'acqua dolce, poi, c'è una particolare collaborazione tra gli attori del settore agricolo, ma c'è anche l'interesse e l'attenzione dei gruppi che tutelano l'ambiente e la natura. E andiamo all'altra nostra rubrica, articolo 9. Questa settimana anche con Marco Carminati continueremo a parlare di tutela del territorio, in particolare questa volta però italiano. La rubrica si chiama articolo 9, come l'articolo della Costituzione italiana che dice: la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Buongiorno da Marco Carminati. Oggi abbiamo in collegamento con noi l'avvocato Urbano Barelli, che è il vicepresidente di Italia Nostra ed è il responsabile anche della sezione di Perugia. Buongiorno avvocato Barelli. Buongiorno. Ecco, voi state lavorando proprio in questi giorni al convegno L'Italia Mangiata, un convegno che si tiene a Roma alla sala Acin di via Marsalotto. Il titolo è singolare, L'Italia Mangiata è qualcosa che rimanda alla nostra tradizione culinaria. Noi siamo un popolo di mangioni, di buoni mangiatori, perché abbiamo una meravigliosa cucina. Però in questo caso il significato non è certo così felice e allegro. Che cosa significa L'Italia Mangiata? Beh, noi vogliamo mettere in evidenza quanto territorio si è consumato in questi anni. Assistiamo a questi disastri naturali che spesso, quasi sempre, sono la conseguenza di un'edificazione, di un consumo del suolo che sta creando seri problemi sull'assetto idrogeologico del paese. Tenga conto che dal 1956 al 2001, secondo studi dell'Università dell'Aquila, la superficie urbanizzata del nostro paese è aumentata del 500%. Spaventoso. Si è valutato poi che dal 90 al 2005 l'Italia è stata capace di trasformare oltre 3,5 milioni di ettari, trasformandoli in edificati. Significa che una superficie grande quasi quanto il Lazio e l'Abruzzo messi insieme, quindi è necessario mettere un freno, certo. Mettere un freno, perché troppo cemento distrugge il paese, perché troppo cemento crea problemi all'assetto idrogeologico. Che vediamo tra l'altro in continuazione poi nelle stagioni autunnali e invernali nei nostri telegiornali. Insomma, un bel paese fatto di cemento non è un bel paese, e questo è uno dei temi su cui voi avete insistito molto in questi anni, state insistendo adesso. Anche perché questo è un diritto, no, per noi, non è un'opzione quella di avere un paese non cementificato, o sbaglio? No, è un diritto alla qualità della vita, alla salute, perché ovviamente queste cose poi si ripercuotono nella nostra qualità della vita, è un diritto ad avere un ambiente di qualità. Ora mi faccia dire, noi siamo molto lieti, come dire, di questo cambio di governo, quindi di una diversa iniezione di marcia, diversa marcia che il paese sta prendendo, però avremmo preferito che nella lettura dell'importante discorso del nuovo Premier ci fosse stato un cenno all'ambiente, un cenno alle generazioni future, un cenno ai beni comuni. Il bene comune per eccellenza è proprio l'ambiente. Se noi guardiamo all'Europa, come il Premier Monti mi sembra voglia fare in modo importante e qualificato, noi dovremmo dire che nel ricordare perlomeno che nel 2010, il 3 marzo 2010, la Commissione europea ha lanciato il piano strategico Europa 2020, sì. Una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, quindi va bene la crescita, ma non solo equità, come giustamente ha detto ieri il Premier Monti, ma anche sostenibilità. Ecco, il diritto delle generazioni future è quello di avere anche per loro un ambiente di qualità, e che quindi questa crescita non comprometta il loro diritto di poter usufruire delle stesse condizioni che noi oggi abbiamo goduto. Quindi un rilancio del nostro paese deve assolutamente essere coerente con la strategia che l'Europa si è data, non solo sotto il profilo delle infrastrutture che noi riteniamo debbano essere più immateriali, come le autostrade digitali, piuttosto che materiali, come invece le autostrade, come dire, fatte di cemento e di catrame. Il paese deve destinarsi e vocarsi ad una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Insomma, la vostra voce, il vostro impegno, che da anni è sul campo, sicuramente verrà ascoltata anche da questa compagine governativa, come è stata stata, se non altro, udita fortemente anche dalle precedenti. Quindi mi auguro davvero che le aspirazioni e le battaglie di Italia Nostra trovino un indirizzo anche politico, in modo da sviluppare il nostro paese, ma mantenendolo bello come ce l'hanno lasciato le generazioni del passato. Io ringrazio molto l'avvocato Barelli, grazie. Prego, buona giornata, buon lavoro. Grazie a lei e a tutti gli ascoltatori, l'appuntamento a sabato prossimo. Grazie a Marco Carminati per questa intervista. L'altro pianeta si conclude qui. Vi ricordo, per scriverci c'è il nostro indirizzo email, l'altropianeta@radio24.it. L'appuntamento è per la settimana prossima, alla stessa ora. Da Laura Bettini, un buon proseguimento d'ascolto.